fotosebbia, un portafoglio, un mare di ricordi, anche un ombrello, un orologio che ti ha regalato la tua nonna, un rossetto, i tacchi a spillo e anche una gomma. Mi sembra il mercato della fiera, ci trovi di tutto, di più e anche la cera. Ci trovi Pinocchio e anche una balena, ma questa è come la borsa della Befana. A forza di cercare mi si è stancato il cervello, non trovo mai qualcosa in questo bordello. Amore, fai qualcosa, dammi almeno un indizio, altrimenti chiamo Hitchcock per risolvere questo giallo. Ma dove sarà mai il telefonino? Ho trovato le chiavi che avevo perso l'altro mattino. Ecco che ho da fare quando devo cercare. Pensare a un'altra cosa e far finta di non vedere. A forza di cercare mi si è stancato il cervello, non trovo mai qualcosa in questo bordello. Amore, fai qualcosa, dammi almeno un indizio, altrimenti chiamo Hitchcock per risolvere questo giallo. La tua borsa è un grande enigma, tra New York e Francoforte. La tua borsa è un gran tranello, una corsa a cavallo, un labirinto per chi si trova a sgomitolare ogni sera. La solita domanda, non trovo la mutanda, a forza di cercare mi si è stancato il cervello, non trovo mai qualcosa in questo bordello. Amore, fai qualcosa, dammi almeno un indizio, altrimenti chiamo Hitchcock per risolvere questo giallo. A forza di cercare mi si è staccato il cervello, non trovo mai qualcosa in questo bordello. Amore, fai qualcosa, dammi almeno un indizio, altrimenti chiamo Hitchcock per risolvere questo giallo.